ti vorrei confidare che ero in lutto per tutte quelle frasi che non ho mai detto. Affetto tolto, sommerso dal dolore che io troppo porto nel mio petto, senza una dolce fragola in questo mondo amaro che si appare raro in una notte che riarde la gola, note troppo rotte, ma molte volte si rimane solo a scoprire che... Si rimane solo a scoprire che... Nelle mani rimangono frammenti di un disarmo, terre friabili, troppo flebili, che cancellano serate troppo nobili. Tempeste difendono, offendono, le mani rimangono, gli inganni che nel mondo i venti portano e ora lì con te straziano lontano nel tuo mondo. Tutte quelle sere storte contro quelle belle portano via le verità. Ti vorrei confidare che ero in lutto per tutte quelle frasi che non ho mai detto, affetto tolto, sommerso dal dolore che io troppo porto nel mio petto, senza una dolce fragola in questo mondo amaro che si appare raro in una notte che riarde la gola, note troppo rotte, ma molte volte si rimane solo a scoprire che... Troppe volte immersi si rimane in vanità, tutte quelle volte storte in cui in realtà capovolte ti sommergono e nessuno sa. Troppe paure e volte ritornano e portano via le più pure semplicità, come il tuo respiro nel vento, ora la mente comunione di tutto. Questo tempo con te a fianco nell'anima tornano e rimangono sospiri di luci tue incancellabili nelle mie eclissi che si stringono tra il rumore delle genti che poi confondono, che poi confondono. Ti vorrei confidare che ero in lutto per tutte quelle frasi che non ho mai detto, affetto tolto, sommerso dal dolore che io troppo porto nel mio petto, senza una dolce fragola in questo mondo amaro che si appare raro in una notte che riarde la gola, note troppo rotte, quell'ora... In quell'ora, ma molte volte si rimane solo a scoprire che i miei passi lenti come pendenti che le tale infliggono tra i denti, pugni lenti che riemergono quelle sere di chimere nere, poi offendono passi certi. Dare a bere non è sempre facile, in mezzo far soffrire tutte quelle file di agguati al cuore, quando vedo solo te, il mio amore, trovo rotte impure, covate, di ad aspettare, di riardere nel dolore. Ti vorrei confidare che ero in lutto per tutte quelle frasi che non ho mai detto, affetto tolto, sommerso dal dolore che io troppo porto nel mio petto, senza una dolce fragola in questo mondo amaro che si appare raro in una notte che riarde la gola, note troppo rotte in quell'ora, ma molte volte si rimane solo a scoprire che... Se stella nel mio firmamento di te brilla l'irriducibile tua voglia di tornare a quel profumo di quella sera che condusse via quella voglia e paura e anche un po' la mia. Ma ora cerca la magia nel tuo cuore, fuori da una giornata di rumore, e sogna sempre un respiro migliore, sempre un respiro migliore. Ti vorrei confidare che ero in lutto per tutte quelle frasi che non ho mai detto, affetto tolto, sommerso dal dolore che io troppo porto nel mio petto, senza una dolce fragola in questo mondo amaro che si appare raro in una notte che riarde la gola, note troppo rotte in quell'ora, in quell'ora, in quell'ora, in quell'ora, in quell'ora, in quell'ora, ma molte volte si rimane solo a scoprire che, si rimane solo a scoprire che basta aprirsi dentro.